5B. Ascolta e trasforma. Deve andare. Ha fretta. Devono andare. Hanno fretta. Deve correre. Ha fretta. Devono correre. Hanno fretta. Deve iniziare subito, ha fretta. Devono iniziare subito, hanno fretta. Deve parlare velocemente, ha fretta. Devono parlare velocemente, hanno fretta. Deve chiamare subito Marco. Ha fretta. Devono chiamare subito Marco. Hanno fretta. Dobbiamo pagare il biglietto alla cassa. Dovete pagare il biglietto alla cassa. Dobbiamo aspettare i cugini in albergo. Dovete aspettare i cugini in albergo. Dobbiamo comprare i libri in libreria. Dovete comprare i libri in libreria. Dobbiamo dipingere la parete di bianco. Dovete dipingere la parete di bianco. Dobbiamo restituire il libro. Dovete restituire il libro.